Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Oggi a Destini incrociati si ripercorre la genesi di un mito, la nascita di un eroe che dagli anni 60 in poi ha riempito con britannica ed elegante prepotenza l'immaginario, gli schermi e i cuori di mezzo mondo. Un mito che non sarebbe mai diventato tale senza la combinazione di svariati fattori e la sinergia tra i talenti di diversi protagonisti, due dei quali, in particolare, sono stati di vitale importanza per la costruzione del nostro eroe odierno. Andiamo a scoprire chi sono. Siamo a Londra. È il 5 ottobre del 1962. Al London Pavilion, storico teatro di Shaftesbury Avenue, si tiene la prima proiezione di un film destinato a diventare il capostipite di una fortunatissima serie. Il suo enigmatico titolo è Doctor No. My name is Bond. James Bond. Alla prima sono presenti molti dei membri della squadra che ha concorso alla realizzazione del film. Attori, sceneggiatori e produttori sono pronti a spalancare le porte ad un clamoroso trionfo. Produttori, si diceva, questa sera al London Pavilion i nostri occhi si posano in particolare su un gentleman dalla figura non proprio slanciata, ma dallo sguardo vispo e dall'ingegno fervido. Il suo nome è Harry Saltzman. Harry Saltzman. Harry è a Londra insieme al suo socio d'affari, Albert Broccoli, detto Cubby, l'altra metà della mela del formidabile team produttivo che nel corso degli anni sfornerà un successo dietro l'altro. Ma qual è la storia di questo duo e quale sarà l'incontro che farà cambiare la loro vita? Prima di scoprirlo, puntiamo i nostri riflettori su Harry Saltzman. Chi parla è Hilary Saltzman, la figlia del produttore Harry, il nostro primo protagonista di oggi. Non ci ha mai detto nulla di sua madre. Aveva il mio secondo nome, Dora. So che morì giovane. Lui scappò di casa quando aveva all'incirca 15 anni. Come avete appena sentito, l'adolescenza di Harry è turbolenta. Nato nel 1915 a Sherbrooke, nel Quebec, regione canadese a maggioranza francofona, dopo la fuga a 17 anni si unisce a un circo. Ad aspettarlo dopo alcuni anni da girovago c'è la Seconda Guerra Mondiale, che lo vede arruolarsi nel 1939 nell'esercito canadese di stanza in Francia. Così racconta Steven, l'altro figlio di Saltzman. Lavorò certamente per l'OSS ed ebbe un ruolo che non mi fu mai completamente spiegato, ma lavorò di certo in un reparto clandestino. L'OSS, Office of Strategic Services dell'Esercito degli Stati Uniti, è l'antenato della moderna CIA, i servizi segreti americani. Harry farà tesoro di questa esperienza e svilupperà una certa passione per le tematiche legate allo spionaggio e all'intelligence. Finita la guerra, Harry resta in Europa e precisamente a Parigi, città dove incontra la sua futura moglie, Jackie. Inizia a lavorare come talent scout per diverse produzioni teatrali, televisive e cinematografiche. È un uomo intraprendente, pieno di idee e di contatti, come ricorda la figlia Hilary. Aveva un incredibile gruppo di amici che erano scrittori ed impresari teatrali a Parigi in quel periodo. Ogni volta che qualcuno voleva recitare o mettere insieme una compagnia o fare qualcosa in un film o in televisione, era lui l'uomo da contattare. Era sempre in grado di trovare la persona giusta, l'occasione giusta. Era sempre sul pezzo. I talenti sono come pietre preziose, vanno scovati e valorizzati. E Saltzman, per questo, ha un fiuto particolare che gli permette di produrre i suoi primi film. Fonda una piccola casa di produzione, la Woodfall Productions, con la quale inizialmente non ottiene né grossi successi né grossi ritorni economici. Harry, però, sogna di vivere alla grande e non smette mai di guardarsi intorno alla ricerca dell'occasione perfetta. Nella sua testa, lui corre a perdifiato, mentre il resto del mondo cammina o resta fermo a guardare. So he strikes like thunder. the meaning of success. His needs are more, so he gives less. They call him the winner who takes all, and he strikes like thunderbolt. Any woman he wants, he'll get. He will break any heart without regret. His days of asking are all gone. His fight goes on and on and on. But he thinks that the fight is worth it all. So he strikes like thunder. L'occasione perfetta arriva. Il destino, o forse il suo infallibile fiuto, gli fa un primo regalo all'inizio degli anni 60, facendogli incontrare Ian Fleming, scrittore britannico trapiantato in Giamaica, autore di una fortunata serie di romanzi che hanno per protagonista James Bond, un agente segreto al servizio di Sua Maestà. Fleming, come Saltzman, ha prestato servizio durante la Seconda Guerra Mondiale e in qualità di ufficiale della Marina Britannica ha vissuto situazioni utili a dar vita alle innumerevoli, incredibili avventure del suo personaggio. Lui stesso ne è consapevole. È difficile da spiegare. Credo che nei miei libri ci siano ritmo e molta azione. E lo spionaggio non è affatto considerato una faccenda sporca dalla maggior parte del pubblico. Loro lo considerano piuttosto una specie di gioco molto romantico. Fin dai primi momenti in cui si parlava di spionaggio, si sbirciava al di fuori delle convenzioni. Beh, ecco, lo spionaggio è sempre stato considerato un mestiere molto romantico per un uomo. Un uomo solo che lotta contro le forze di polizia o l'esercito. Saltzman è affascinato dal personaggio e dalle sue storie intriganti. Acquista infatti per 6 mesi i diritti dei romanzi di Fleming, convinto di riuscire a trarne un successo sul grande schermo. Ma questo personaggio, James Bond, non interessa le grandi major. Per loro non ha le caratteristiche giuste per entrare nell'immaginario del grande pubblico internazionale. Allo scadere dei 6 mesi di opzione, Saltzman è deluso e scoraggiato. Non ha ancora trovato nessuno che sia seriamente interessato a produrre il film. Eppure lui crede fermamente nelle potenzialità del personaggio. Io credo che alla gente piaccia leggere storie di eroi. I romanzi in realtà stanno avendo un discreto successo. Persino il presidente Kennedy si è dichiarato un fan assiduo. Chiunque a questo punto avrebbe mollato, ma i grandi successi arrivano solamente se ci si crede fino in fondo, magari supportati dalla volontà di un compagno di viaggio. È a questo punto che nella vita di Harry entra Cubby Broccoli. Cubby è anche lui un produttore e crede, come Harry, nelle potenzialità del personaggio di Fleming. Lui ha le disponibilità economiche per produrre in autonomia il film, ma Saltzman non intende mollare proprio ora. Saltzman propone a Broccoli di fondare insieme una società. È Dana Broccoli, moglie di Cubby, a parlarcene. Harry non voleva vendere i diritti, voleva far parte della squadra. E fu così che iniziò la loro collaborazione. La società si chiamerà Danjacques, acronimo di Dana e Jacqueline, le mogli dei due soci. Harry è entusiasta. Ha trovato un compagno di avventura, un uomo in grado di aiutarlo a rendere tangibile il suo sogno, quello di portare Bond sul grande schermo. I due sono diversissimi, eppure in team funzionano alla perfezione. Harry sapeva essere molto divertente e aveva un sacco di energia. Gli piaceva fare 6 cose per volta, altrimenti diventava irrequieto. Cubby era molto diverso perché amava seguire il progetto che aveva per le mani e spendeva tutte le sue energie in quello. Dietro un grande uomo si dice ci sia sempre una grande donna. E sia Harry che Cubby, da questo punto di vista, sono molto fortunati. Dana e Jacqueline, infatti, giocheranno un ruolo determinante nel costruire il successo della futura produzione. Lui invitava sempre a casa le nuove attrici e mia madre di solito diceva la sua. Insomma, mia madre era molto coinvolta nella decisione se le attrici erano abbastanza carine, se erano giuste. Venivano a cena e mia madre controllava se e come mangiavano. Steven ricorda divertito il ruolo di supervisore della madre, lasciando intuire l'importanza che le figure femminili, le donne che spendono la propria vita al fianco dei production men, hanno avuto nella costruzione del mito. È stata proprio una di loro, Dana, moglie di Broccoli, a gettare le fondamenta per la scelta di casting più importante e azzeccata della storia del cinema. Se questi due signori, quel 5 ottobre del 1962, sono a Londra, in procinto di stringere il loro lungo patto col successo, lo devono soprattutto a Dana e al suo fiuto femminile. Si è tanto parlato di eroi, eppure il nostro James Bond non ha ancora un volto. Tutto infatti è pronto, una sceneggiatura perfetta, un'oliatissima macchina produttiva, ma manca ancora il volto giusto per il protagonista. Lo scenografo Ken Adam non nasconde le sue perplessità sulla scelta dell'attore. È bene ricordare che Sean era decisamente un diamante grezzo a quell'epoca. Lo Sean di cui si sta parlando è ovviamente Sean Connery. Sean Connery. Un diamante grezzo. E come tutti i diamanti, il suo volto è destinato a splendere per sempre. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Hold one up and then caress it. Touch it, stroke it and undress it. Every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last a Sean Connery è come la sua terra, la Scozia, battuta dal vento gelido ma ricca di paesaggi mozzafiato, inospitale eppure irrinunciabile. Nato in una povera famiglia operaia, Sean costella la sua infanzia e la sua giovinezza di esperienze decisamente variegate. Fa il lattaio e l'autista, il marinaio e il lucidatore di bare. Fa addirittura il modello per gli studenti del corso di disegno dell'Edinburgh College of Art. Già, il modello. Sean è un bellissimo ragazzo, 1,90 m, fisico da atleta, sguardo profondo, decisamente sprecato come lucidatore di bare. Sean si butta nel calcio. Arriva a militare nelle file del Bonnyrigg Rose, una squadra giovanile scozzese. Non sarà su una palla di cuoio che Sean riverserà il suo talento. Il suo destino lo guida da tutt'altra parte, come lui stesso ama ricordare. Mi sono reso conto che un giocatore di calcio ai massimi livelli poteva terminare la sua carriera intorno ai 30 anni e io ne avevo già 23. Così ho deciso di fare l'attore e questa si è rivelata per me una delle mosse più azzeccate in assoluto. Non uno sportivo dunque, bensì un attore. Sean, difatti, tra le sue svariate attività, dà una mano nel backstage del King's Theater di Leven Street, nella sua città natale, Edimburgo. È così che si avvicina all'ambiente della recitazione. Ed è proprio grazie a un altro dei suoi hobby sportivi, quello di bodybuilder, che Sean otterrà la sua prima parte sulle scene. Durante il concorso di Mister Universo nel 1953, Sean sente un altro concorrente parlare di un'audizione per un piccolo ruolo in un musical, a Londra. Lo spettacolo si chiama South Pacific. È la sua occasione. Sean ottiene la parte. Dubito che in Scozia qualcuno mi avrebbe scritturato. Certamente mi hanno assunto per fare altri lavori, ma non certo per fare l'attore. Non avevo esperienza. È stato più facile venire a Londra e fare il provino per South Pacific. È così che inizia l'avventura di Sean Connery nel mondo dello spettacolo. Fa un po' di teatro, un po' di televisione, qualche parte minore in alcune produzioni cinematografiche. La strada però è ancora lunga e in salita. Andai in tour per circa un anno e poi tornai e recitai in 3 o 4 spettacoli al Kew Theatre, un teatro sperimentale a Londra. Dopodiché sono rimasto a piedi per 6 mesi. Sean non si perde d'animo. Continua a fare provini, ottenendo qualche parte in alcune produzioni americane. Una nel 1958 in Estasi d'amore, Operazione Love, accanto a Lana Turner. E un'altra nel 1959 in un film per famiglie prodotto dalla Disney, Darby O'Gill e Il Re dei Folletti. Oh, she's my dear, my darling one. Her eyes so sparkling, full of fun. No other can match the likes of her. Darby O'Gill e Il Re dei Folletti. Può darsi che il titolo suoni un po' ridicolo, eppure è proprio questo il film che porta fortuna a Sean. Dana Broccoli, appassionata di film fantasy, va a vedere quella pellicola e nota il giovane protagonista. Ha il fisico e il volto perfetto per interpretare l'agente segreto che suo marito Cabby e il socio Saltzman stanno cercando. Per l'attore scozzese è l'insperata svolta della sua carriera, così come per i produttori, che su quel volto costruiranno il personaggio chiave dei loro film, capace di attraversare 3 generazioni. Alla fine degli anni 50 si gettano le basi per la nascita di un mito. When you were young and your heart was an open book, you used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Destini incrociati. A Destini incrociati ci addentriamo nel mito di James Bond, l'agente segreto più affascinante e spregiudicato della storia del cinema. Siamo all'inizio degli anni 60. L'istinto di Harry Saltzman lo ha portato ad acquisire i diritti sui romanzi di Fleming. Snobbato dalle grandi major, il produttore si unisce a Cubby Broccoli per produrre la prima pellicola. Al casting manca il protagonista, che verrà individuato da una felice intuizione della moglie di Cubby, Dana. È a questo punto che il suo destino si incrocia con quello del trentenne Sean Connery. Entrambi reduci da un passato non sempre facile, fatto di innumerevoli tentativi per trovare una svolta, i due, all'inizio degli anni 60, sono pronti per spiccare il volo verso il successo. Alla prima di Dr. No, il primo film della premiata ditta Saltzman Broccoli Connery, l'accoglienza del pubblico d'oltremanica in quella sera autunnale è decisamente calorosa e anticipa i successi che stanno per arrivare. Da noi in Italia il film verrà distribuito nel febbraio del 1963 col titolo Agente 007, licenza di uccidere. Ammiro il suo coraggio, miss. Trench. Silvia Trench. E io ammiro la sua fortuna, mister... Bond. James Bond. L'ambientazione esotica, ideale per mitigare il rigore dell'inverno, scalda il cuore a milioni di fan, che in tutto il mondo decretano il trionfo di questo primo capitolo della serie. Licenza di uccidere incassa complessivamente 20 milioni di dollari, ovvero 20 volte il budget iniziale. La strada per i successivi capitoli delle avventure cinematografiche di Bond è decisamente spianata. Qual è la ricetta di un tale successo? Di certo, la giusta scelta dell'interprete ha contribuito moltissimo alla causa, ma non basta. All right, here we go now. Action! La voce che avete appena sentito è quella del regista Terence Young, scelto per dirigere l'esordio di Connery nei panni di 007. Sean agli inizi è ancora quel diamante grezzo venuto dal nord e ha bisogno di qualcuno che gli insegni le maniere di un vero gentleman britannico. A tagliarlo su misura è proprio Terence Young. Gli fa accorciare i capelli e spuntare le folte sopracciglia. Gli insegna a muoversi e a parlare nel modo adatto al suo status. Lo fa vestire dal proprio sarto personale e lo costringe addirittura a indossare lo smoking mentre dorme, per farlo naturalmente abituare al senso di costrizione che certi abiti possono generare. Terence instilla in Sean, e dunque anche nel personaggio di Bond, la passione per l'eleganza e il bon vivre. One medium dry vodka martini, mixed like you said, sir, and not stirred. Connery ci mette poco a far suo quel personaggio. Ne ha tutte le caratteristiche, a cominciare da un umorismo davvero gentleman, un mix di sottile ironia e understatement perfettamente british, anche se lui tiene molto al suo sangue scozzese. Trova che sia faticoso girare questi film? No, funziona tutto a meraviglia. Direi che però è un'attività sconsigliabile, dopo una colazione abbondante o una sbornia. Ma va bene così. Sean è diventato James, e James è diventato Sean. L'attore ha calzato come un guanto le caratteristiche del suo personaggio, e il personaggio a sua volta si è comodamente adagiato sulle sembianze di chi lo incarna. Sean Connery ha trovato la combinazione per aprire lo scrigno dell'Olimpo del cinema, la formula matematica per ottenere ciò che sognava. Lo ha fatto diventando un altro, anzi meglio, lo ha fatto moltiplicandosi per due. Essere al contempo Sean e James è un po' come vivere due volte, o almeno così sembra. Stir. so pay the price. Make one dream come true, you only live twice. And love is a stranger who'll beckon you. La trasformazione di Sean Connery è ormai giunta al completo. Grazie al successo che la saga di James Bond ottiene di film in film, Connery indirizza la sua carriera anche al di là del ruolo dell'agente segreto più famoso al mondo. Lavora con altri registi, consolidando la propria fama di ottimo interprete in ruoli come quello di Mark Rutland, ricco vedovo che si invaghisce della complessata cleptomane Marnie nell'omonimo capolavoro del maestro del brivido Alfred Hitchcock. Il tuo vero nome è Edgar e sei bionda. Risparmieremo un sacco di tempo e di spiacevoli discussioni se tu mi dicessi subito la verità. Il tuo vero nome è Edgar? Non mi far perdere la pazienza! Sto lottando contro una voglia prepotente di prenderti a schiaffi. Connery è ben lieto di dividersi tra i set e tra i registi, così come contento di perpetrare il mito di James Bond grazie ai film prodotti da Saltzman e Broccoli. Questo è il terzo film in cui interpreta James Bond. Di certo i fan ne vorranno molti altri, ma per il momento lei cosa pensa a riguardo? Credo che sia splendido, che sia un ottimo veicolo di intrattenimento. È chiaro che i fan lo adorino. E per me fare un film all'anno o ogni 14 mesi è un ottimo allenamento. Già, i fan. È la prima metà degli anni 60, l'alba di una rivoluzione nei costumi, l'era della minigonna e della Beatles-mania. La gente ha bisogno di miti, figure carismatiche di cui invaghirsi e per cui perdere la testa, abbandonando credenze e convenzioni in uso fino a quel momento. Le schiere di fan sfegatati sono all'ordine del giorno. Nemmeno Sean Connery è immune al fenomeno, come dimostra questo piccolo episodio raccontato da Hilary Saltzman. Una delle mie amiche entra in salotto e lì ci sono Sean Connery, Peter Sellers e mi pare ci fosse anche Mick Jagger e un po' di celebrità arrivate da Londra. Insomma, è entrata in salotto ed è svenuta. A casa Saltzman, una magnifica villa immersa nella campagna inglese, si ritrovano spesso tutte le personalità coinvolte nella produzione dei film di Bond. Hilary e il fratello Steven vivono un'infanzia da sogno, circondati dalla cerchia di celebrità che lavorano con il padre e costantemente immersi in un'atmosfera sopra le righe, dove tutto, a partire dalla piscina sul tetto, è decisamente smodato. Tutto è più grande, più spettacolare, più affascinante, più incredibile rispetto alla vita reale. Steven, a questo proposito, ricorda un episodio che riguarda suo padre. Mio padre era sempre lì a scarabocchiare. Gli chiedevo, cosa stai facendo? E lui rispondeva, sto pensando a modi alternativi in cui morire. Diceva, la morte è talmente rapida, una pallottola in fronte e sei morto. Ma io devo renderla qualcosa di affascinante, in modo che tu muoia in stile hollywoodiano. Non so, coi piranha, con l'elettrocuzione. Deve essere qualcosa di bello da vedere, di appagante, che doni al pubblico un senso di rivalsa. Harry Saltzman usa James Bond come grimaldello per aprire il forziere dei suoi desideri. Grazie a lui ha ottenuto la vita strepitosa e il successo che voleva. E ora, da brav'uomo d'affari irrequieto, non sa accontentarsi. 007 è solo un tassello in un progetto che lui vede assai più grande e strutturato, fatto di altri film, di altri interessi, in altri campi. Harry non sa fermarsi. Mentre Sean Connery si gode i successi e la soddisfazione per quel che ha ottenuto, l'inquieto Harry Saltzman si agita in cerca di qualcosa che con tutta probabilità nemmeno esiste. Face to face in secret places, feel the chill. Nightfall covers me, but you know the plans I'm making stay overseas. Could it be the whole of opening? Destini incrociati. A Destini incrociati oggi si parla di uomini all'apice del successo. Uomini che sono partiti dal nulla e sono arrivati in cima. Sono persone che grazie al fiuto e all'intuizione hanno dato vita a una delle icone più longeve della storia del cinema. Queste persone hanno scalato le classifiche mondiali del gradimento, eppure non si sono fermate. Da una parte Harry Saltzman, il produttore che ha creduto in un'idea, e dall'altra Sean Connery, l'attore che deve a Bond il suo futuro. Harry Saltzman è un produttore affermato. È riuscito a realizzare tutti i sogni che voleva per sé e per la sua famiglia. Ha una meravigliosa moglie e degli splendidi figli che scorazzano nella piscina sul tetto della sua villa in campagna, circondati da divi del cinema e da rock star. Ma tutto questo non gli basta. Essendo partito da una realtà tanto umile, lui amava davvero vivere la vita al massimo, in qualunque sua forma. Harry sa che tutta questa fortuna la deve a una persona, anzi a un personaggio, James Bond. È stato Bond la chiave di volta e il volto di Sean Connery ha completato magnificamente l'operazione. L'attore e il produttore condividono la stessa ambizione. La loro carriera non può fermarsi alla saga dell'agente segreto più famoso del mondo. La figlia di Saltzman ne è testimone. Credo che nella sua testa lui pensasse che i film di Bond potessero lastricargli la strada per tornare a fare i film che gli davano davvero soddisfazione. Nonostante sia in cima a una stabile montagna di successo, Saltzman non sta con le mani in mano e comincia a guardarsi intorno per trovare altri progetti. A parlarcene è il figlio Steven. La voglia irresistibile di fare film come The Ipcress File, Billion Dollar Brain e Funeral in Berlin era data dal fatto che così avrebbe potuto occuparsi di nuovo di un antigenere, di un antieroe. Un eroe che non fosse necessariamente piacevole, lindo e lustro agli occhi del pubblico. Il suo socio Cubby Broccoli, invece, è totalmente concentrato sui film di Bond. Cubby crede, non a torto, che le avventure di 007 siano abbastanza sensazionali e non da ultimo lucrative per costruirci una carriera. Nel 1975, Harry vende alla United Artists la sua quota dei diritti sui romanzi di Fleming che aveva acquistato 15 anni prima e che avevano fatto la sua fortuna. Un divorzio che viene così commentato da un altro 007 di successo, Roger Moore. Succede spesso nei matrimoni felici, nei matrimoni di successo, insomma nelle partnership collaudate, che qualcosa vada storto. È stata dura restare vicino ad entrambi. Ma i guai non arrivano mai da soli. Oltre ai problemi finanziari e al divorzio da Broccoli e da Bond, per Saltzman ci sono preoccupazioni familiari. La moglie Jacqueline, compagna di una vita, scopre di essere gravemente ammalata. Saltzman, nel 1976, vende la villa in Inghilterra e si trasferisce in Florida, sperando che negli Stati Uniti avvenga il miracolo. Un miracolo che non arriva. Purtroppo Jackie morì durante il terzo dei miei film di Bond. Fu molto triste. La donna che lo aveva sostenuto per tutta la sua carriera è venuta a mancare. Il tempo per Jackie è finito, ma Harry non saprà mai accettarlo. Dopo che mia madre mancò, mio padre fu un uomo perso, completamente perso. Il 29 settembre del 1994, all'età di 78 anni, Harry se ne va e torna dalla sua Jackie. Forse il loro tempo insieme lassù da qualche parte non è ancora finito. We have all the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Anche il tempo di James Bond interpretato da Sean Connery sembrerebbe finito. Sull'onda dell'ambizione, già a metà degli anni 60, alcune dichiarazioni dell'attore fanno trasparire un certo fastidio nei confronti della quasi automatica identificazione con il personaggio di 007. James Bond, signor Connery, James Bond evoca un'immagine fatta di bionde, proiettili e bevande alcoliche. Lei crede che la gente pensi che sia così anche nella sua vita reale? A dire il vero, non incontro molta gente. Ho molto da fare. Sono al mio quarto film in un anno e le mie occasioni per incontrare gente sono piuttosto scarse. A parte andare qualche volta a teatro o a mangiare qualcosa al ristorante, esco di casa alle 7:30 del mattino e rientro alle 7 di sera. Perciò le mie possibilità di bere alcolici in compagnia di donne bionde e di proiettili sono piuttosto remote. Sostituire l'affascinante scozzese è un'impresa quasi impossibile. Un tentativo viene fatto nel 1969, quando James Bond viene interpretato dall'attore George Lazenby, ma il risultato è deludente. I produttori tornano da Connery implorandogli di tornare a vestire gli eleganti panni di chi gli ha regalato la fama. È il 1971 e Sean è di nuovo la star di Agente 007, una cascata di diamanti. I fan di tutto il mondo tirano un sospiro di sollievo. Stella del Sudafrica, 83 carati e mezzo grezzo, tagliato 47 carati e mezzo. L'Akbar Shah, 116 carati grezzo. Mi sta ascoltando 007. L'Akbar Shah, 116 carati grezzo. Il ritorno di fiamma è però momentaneo. Dal 1973 e per oltre 10 anni, il ruolo di 007 apparterà a Roger Moore. Nel 1983 Sean Connery reciterà nei panni di Bond accanto a Kim Basinger nel remake di Thunderball dal titolo Mai dire mai. Ma Connery è ormai inadeguato al ruolo. Per lui il futuro è fatto di interpretazioni molto più intense. Dal 1983 in avanti, Sean Connery, ormai per sempre libero dal ruolo che lo aveva consacrato, ma che comprensibilmente gli era da tempo diventato stretto, inanella una serie di incredibili successi. Prima Highlander, l'ultimo immortale, poi Il nome della rosa, tratto dal celeberrimo romanzo di Umberto Eco, e quindi il meraviglioso Gli intoccabili di Brian De Palma. E proprio grazie alla sua interpretazione nel ruolo dell'incorruttibile poliziotto irlandese Jimmy Malone che Connery ottiene la sua prima nomination agli Oscar. Sean Connery ha vinto. Ne ha fatta di strada dai quartieri poveri di Edimburgo, passando attraverso il suo folgorante esordio di fama nei panni di James Bond. Dopo il successo sotto la guida di De Palma, è la volta di Steven Spielberg, autore della fortunata serie di Indiana Jones, nel cui terzo capitolo, intitolato L'ultima crociata, Connery interpreta il padre del protagonista. L'intrepido archeologo Jones, proprio come Bond, non sarebbe entrato nell'immaginario collettivo senza il volto e l'aria vagamente stralunata di Harrison Ford. Ed è proprio Ford a intessere qui le sue lodi. Papà, Abbiamo fatto due film di Indiana Jones prima che Sean si unisse alla famiglia. Ma Sean non si limitava, non si limita ad arrivare e semplicemente leggere le battute. Ha portato idee sul tavolo, ottime idee sulla trama, sul personaggio, sul film. Sean Connery, insomma, è un ottimo interprete, un ottimo collega, un ottimo professionista. Ha decisamente travalicato la sua fase bondiana, eppure non ci si deve dimenticare di quanto quella fase sia stata fondamentale per la sua carriera e per le platee di tutto il mondo. A ricordarcelo è Steven Spielberg in persona. Ladies and gentlemen, the recipient of the 1995 AFI Life Achievement Award, Steven Spielberg. Questo è il momento in cui celebrare un attore che ha avuto successo. E c'è stato un momento in cui quell'attore ha creato un personaggio per me, per voi e per milioni di persone in giro per il mondo. Persone che non parlano nemmeno la stessa lingua. Eppure condividono l'amore per questo personaggio, anche se le sue abitudini sono un sogno impossibile. E il personaggio influenza ciò che ci piacerebbe indossare, come ad esempio gli orologi Rolex, ciò che vorremmo bere, ovvero martini agitato e non mescolato, ciò che vorremmo guidare, un Aston Martin DB5. Il suo nome è un esempio di questo fenomeno. Il suo nome è Bond. James Bond. Sean Connery ha fatto sì che James Bond diventasse un fenomeno, un personaggio che ancora strega e fa sognare milioni di fan. Una svolta avvenuta grazie all'intuito di Harry Saltzman, il produttore. I loro nomi sono per sempre legati a quello dell'agente 007, indipendentemente da chi continuerà ad interpretarne le avventure. La storia di Bond non finirà mai. That the revolution's near, but to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. The newspapers shout, a new style is growing. Sidestep the little bits of history repeating.